sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 13 ottobre, il sole in regione è sorto alle 7.21 e tramonterà alle 18.26. Oggi c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Dopo un 2018 relativamente fortunato, quest'anno è stata una stagione da incubo per api e apicoltori. L'andamento meteo ha penalizzato le principali produzioni di miele, con raccolte mediamente al di sotto del 50%, e un nuovo spauracchio, l'arrivo in regione del calabrone orientale, che attacca gli alveari. Ne parliamo nel servizio di apertura, per passare poi ad un'azione di contrasto ai disastri ambientali, i roghi in Amazzonia in primis. Possiamo fare qualcosa quando facciamo la spesa, e dovremmo leggere sempre le etichette per orientare i nostri acquisti, come lo sentirete nella rubrica del bio. Per l'universo vino siamo ancora fermi alle tecniche di produzione dell'antichità, che si devono conoscere per capire anche la realtà di oggi. A seguire una scheda sulla tranquillizzante valeriana e le sue virtù, un ricordo e lode del maiale nero di Fagagna e una ricetta di pane che va oltre il quotidiano. In chiusura, come di consueto, l'andamento dei mercati, le previsioni del tempo per la settimana entrante, più una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Dopo i tempi delle avversità sanitarie, varroa, pesticidi, neonicotinoidi, quest'anno a complicare la vita alle api si è messo anche il meteo. Prima freddo e pioggia sulle fioriture, soprattutto quella della acacia, poi la siccità con i fiori a corto di polline. Luigi Capponi è il presidente del Consorzio Apicoltori della provincia di Udine. Quest'anno è andata ancora peggio rispetto alle aspettative del peggio che uno aspettava, quindi una cosa pazzesca. Le api hanno sofferto. E sono ancora in sofferenza sotto certi aspetti. Addirittura l'Osservatorio Nazionale di Bologna del Miele ci dice che c'è una diminuzione del 40-41% a livello nazionale. Acacia praticamente non c'è stata, perché nel periodo proprio tipico dell'acacia c'è stato grandissimo freddo e tanta pioggia. Il tarassaco era partita bene la stagione col tarassaco, qualcosa è stato fatto, ma poi ci è ritornato il freddo, è ritornata la pioggia e le api hanno mangiato quello che avevano importato. E dopo è arrivata la siccità, perché la pianta si richiude in se stessa e non produce nettare, quindi le api non hanno che mangiare. Da un punto di vista sanitario invece ci sono novità, progressi oppure ancora preoccupazioni? Purtroppo ci sono preoccupazioni. Abbiamo avuto notizia dell'avvenuta colonizzazione da parte della Vespa orientalis della città di Trieste. E la Vespa orientalis si comporta né più né meno come la Vespa velutina, per cui aggredisce gli apiari. Stragi delle api, com'è andata? Grazie all'opera della procura le cose stanno andando bene, nel senso che gli agricoltori hanno cominciato a capire che forse è meglio utilizzare meno pesticidi sui campi e forse possono ottenere prodotti migliori che fanno bene non soltanto a tutti gli insetti che vivono all'interno, ma anche alla salute nostra. Roberta Bittolo, apicoltrice a Pavia di Udine, con apiario sulle rive del Torre. Com'è andata quest'anno? Un'annata da dimenticare. Riesco a produrre di solito 6 varietà di mieli monoflora. Quest'anno su 6, 2 soli. E anche come quantità, solitamente si fanno fino a 25 kg per famiglia. Quest'anno mi sono attestata sui 10-15 al massimo. Lei fa anche mercato? I clienti, quelli fidelizzati, insomma, continuano a venire. Certo è che quando ad un mercato mi manca un tipo di miele, il cliente è perso. Mirko e Silvia a Castelnuovo del Friuli sono apicoltori di montagna e mieli rari. Fanno nomadismo, quindi inseguono le fioriture. Com'è andata quest'anno? È andata male perché sostanzialmente abbiamo cercato di lavorare fino al mese di giugno, in cui è iniziato il vero lavoro da apicoltore, perché fino a quel momento abbiamo cercato solamente di fare il più miele possibile, ma sostanzialmente di tenerle in vita, perché le api stavano a maggio, stavano letteralmente morendo di fame. Il futuro come lo vedete? Dobbiamo capire forse che dobbiamo adattarci a un mondo sostanzialmente nuovo. Penso che le api avranno sempre più bisogno del nostro aiuto e dell'aiuto anche delle istituzioni, perché sono cambiamenti e sono problemi che da soli noi non possiamo gestire. Se l'andamento è questo e i parassiti delle api sono sempre più numerosi, se le coltivazioni intensive sono sempre più numerose e si riduce il numero di fiori in cui le api possono bottinare se arriva la vespa velutina o gli altri parassiti delle api, sarà difficile fare i conti con queste. Sostanzialmente sono delle calamità per le api. Voi avete puntato sulla qualità, voi avete puntato sulla specializzazione. La gente vi segue? Assolutamente sì. La gente ama vedere dove facciamo i mieli, la gente ama vedere mieli strani o mieli diversi dal solito e ama capire e conoscere prima di tutto le api. Avete un dato sulla produzione di quest'anno paragonato a quelle degli anni scorsi? L'anno scorso è andato particolarmente bene. Comunque rispetto all'anno scorso noi abbiamo capito che siamo intorno all'80% di perdita del prodotto. Spegniamo l'Amazzonia leggendo l'etichetta, il titolo che Cristina Micheloni ha dato al suo contributo oggi per la rubrica del bio. Infatti credo che oltre a chiedere con forza giustamente un drastico cambiamento politico, dobbiamo usare le leve che ci sono più vicine per veramente farlo accadere. E la cosa che possiamo fare già da domani mattina è fare la spesa in modo da spegnere questi incendi non solo in Amazzonia ma anche nel Borneo, in Siberia e tutte le aree che stanno bruciando. Come dice Costantini, la spesa è un atto politico. Assolutamente, possiamo fare i pompieri facendo la spesa. Io vorrei riportare il ragionamento al perché le aree del mondo bruciano. La causa principale che è quello che mangiano gli animali allevati in Europa. Come non li alleviamo, sono la reale cagione delle emissioni di gas serra in quantità di gran lunga superiore a quelle timide e fisiologiche che le vacche al pascolo provocano. Quello è il vero problema, non la vacca al pascolo. Ricordo solo un numero: ogni UBA, che è l'unità di bestiame adulto, che equivale a una vacca, un toro adulti, ovvero 0,6 vitelli, ovvero 0,4 suini da macello, ovvero 0,05 polli e 0,016 ovaiole, quindi è un numero per rappresentare una quantità di animali. Ogni UBA di animale allevato in Europa pesa per alimentazione su un ettaro qui in Europa, ma anche su un altro ettaro che sta in un altro continente, nel nostro caso spesso nell'America Latina, perché da lì arriva la soia, il pannello di soia o altro che mangia. Come si fa a evitare tutto questo? Bisogna un po' andare oltre il chilometro zero, quello normalmente inteso, e leggere l'etichetta. I prodotti biologici per regolamento debbono contenere una percentuale di alimenti che siano foraggi, granelle, eccetera, di produzione aziendale o comprensoriale. Inoltre i ruminanti debbono mangiare principalmente foraggi, al di là che siano bio o meno, significa cambiare proprio la tipologia di allevamento, che ha anche una serie di ripercussioni sul benessere degli animali. C'è poi sempre, oltre al marchio del bio che fa questo passo, e lo vediamo sempre più di frequente, accompagnato da un altro marchio, che è quello del latte fieno, molto spesso abbinato al marchio del bio, che significa che quelle vacche hanno prodotto latte mangiando quasi esclusivamente fieno e foraggi. Quindi, se vogliamo spegnere Amazzonia, Borneo, eccetera, leggiamo l'etichetta. E magari, penso di più al Borneo in questo caso, come dice Costantini, evitiamo le merendine o ancora di più tentiamo di comprare prodotti sfusi, così riduciamo anche la plastica. Oggi con il professor Roberto Zironi, che insegna enologia all'Università di Udine, per la serie dell'Universo Vino, parliamo di come veniva fatto, di come veniva preparato il vino nell'antichità. Diciamo che esistono tutta una serie di documentazioni, diciamo sia legate a rilievi archeologici che a pitture murali dell'antico Egitto, piuttosto che a raffigurazioni presenti su vasi greci o steli o mosaici dei pavimenti anche nelle antiche ville romane. Diciamo che la fase fondamentale per produrre il vino è quello di estrarre dall'uva un succo che sia in grado di essere fermentato, quindi per trasformare gli zuccheri in alcol. Il succo dell'uva contiene già degli zuccheri fermentescibili, quindi non è complicato quello, diciamo, di fermentare questo succo, ma piuttosto come estrarlo, come ottenerlo. Diciamo che da un punto di vista però della stabilità microbiologica, il vino è un prodotto intermedio. Cioè l'obiettivo finale della natura è quello di ossidare completamente gli zuccheri, quindi possiamo dire che il prodotto finale della fermentazione degli zuccheri è fondamentalmente l'aceto. Quindi il grosso problema che gli antichi hanno dovuto affrontare era come interrompere la fermentazione a vino, cioè non fare diventare quindi il prodotto una bevanda acetosa. Cosa hanno osservato gli antichi? Che i vini diventavano difficilmente aceto se i vini avevano un'alta gradazione alcolica o se piuttosto venivano conservati all'interno di recipienti chiusi, magari mantenuti in ambienti freschi. Quindi queste sono un po' le linee, le direttrici tecnologiche di sviluppo della vinificazione nell'antichità. Come si otteneva il succo d'uva? E quindi come si poteva estrarre comunemente il succo dalle uve? Lo strumento principale è il palmento. Cos'è il palmento? Abbiamo delle documentazioni antiche, nella Sila abbiamo centinaia di palmenti sparsi nei boschi, cioè delle pietre incavate in cui l'uva veniva stesa e veniva pestata coi piedi. Più modernamente, queste diciamo platee erano praticamente costituite in laterizio con dei muretti a contenere il prodotto che si otteneva. Una volta che quindi veniva pestato coi piedi, il succo veniva recuperato, magari insieme alle bucce e separato di una parte dei raspi, e veniva posto all'interno di contenitori, di grandi contenitori, in cui subiva la fermentazione alcolica. Questi contenitori sono ancora presenti, diciamo, nell'enologia di alcuni paesi. In Georgia, ad esempio, ancora oggi si producono dei vini all'interno di contenitori chiamati quiri, dei contenitori di circa 10 ettolitri di capacità che venivano interrati. Un po' tutti la conosciamo come conciliatrice del sonno, ma sono tante le virtù della valeriana, come ci dice oggi Antonino Danelutto. È un'erbacea perenne il cui nome scientifico Valeriana officinalis ha origine dal latino valere, cioè star bene, godere buona salute. In friulano è conosciuta non solo come valeriane, ma anche come yerbe passare o vaniglie salvadie. È presente su tutto il territorio regionale, nei prati e nei boschi umidi, sulle sponde di canali o di corsi d'acqua in genere. È alta anche 150 cm, ha rizoma con radici e fusto eretto, cavo ramificato nell'infiorescenza. Le foglie sono opposte, pennate, con diverse paia di segmenti lanceolati e pelosetti aventi margine dentato o intero. I fiori, bianco-rosei a 5 lobi, compaiono in maggio-giugno e sono riuniti in un'ampia infiorescenza apicale. Il frutto è un achenio con setole piumose che ne favoriscono la diffusione ad opera del vento o degli animali, agevolando la disseminazione a distanza. In cucina si possono utilizzare in modesta quantità le foglie molto giovani associate ad altre erbe di stagione. Invece è in questo periodo e fino al prossimo marzo che si raccoglie il rizoma di piante di 2-3 anni arricchito durante l'estate di parecchi principi attivi. Per la sua conservazione, poiché teme l'essessivo calore, deve essere essiccato a una temperatura non superiore a 40-45 gradi centigradi. In ogni caso va rinnovato ogni anno, in quanto con l'invecchiamento perde buona parte della sua efficacia. La sua azione terapeutica è dovuta soprattutto all'olio essenziale, agli acidi valerenici e ai valepotriati. Grazie a questi, che agiscono in modo sinergico, la valeriana è considerata un efficace sedativo cardiaco e del sistema nervoso centrale, uno spasmolitico intestinale, un valido rimedio contro i disturbi della menopausa. Favorisce il sonno e ne migliora la qualità, specialmente nelle prime ore della notte. Di solito si evitano le preparazioni casalinghe perché nauseabonde e pertanto si preferiscono medicinali a base di valeriana sotto forma di confetti o di compresse rivestite o di capsule. Tuttavia l'uso del farmaco non dovrebbe venire assunto con continuità per non creare assuefazione e dipendenza. Una curiosità: l'intenso e sgradevole odore del rizoma ha effetto inebriante sui gatti che provano euforia quando lo annusano e, miagolando a lungo, vi si strofinano sopra con grande piacere. Ciò giustifica un altro nome attribuito alla pianta, quello di erba gatta. Siccome anche i topi vengono attratti da quell'odore, il rizoma di valeriana un tempo veniva impiegato come esca nelle trappole. Si aggira per il Friuli un fantasma, il fantasma del maiale nero, un animale che c'era, glorioso, e adesso non c'è più. Ci dice tutto Adriano Del Fabbro per la rubrica del maiale. Si aggirava negli allevamenti dell'anfiteatro morenico friulano fino ad alcune decine di anni fa il cosiddetto magrone nero, un maiale che raggiungeva a malapena i 120 kg di peso, ispido, con pelle e setole completamente nere. Le sue carni però erano saporitissime e delicate. Il lardo raramente superava i 7 cm di spessore. I prosciutti erano ottimi, anche se piuttosto piatti e a zampa molto lunga. Si trattava di animali rustici, frugali, prolifici e assai resistenti alle malattie, con le orecchie larghe pendenti sugli occhi e le unghie ravvicinate come i cinghiali. I maiali neri friulani erano abbastanza diffusi nell'area collinare attorno a San Daniele, ma rappresentavano pur sempre una minoranza nell'universo suinicolo regionale, circa il 10%. La razza si estinse verso la metà degli anni 70, ma c'è ancora chi fa risalire ai cosciotti di questi animali la mitica bontà originaria dei prosciutti di San Daniele. Gli anziani narrano questa specie di leggenda, ci confida Dante Bagato, norcino e prosciuttaio in San Daniele. Molti anni fa i bambini venivano mandati nei boschi a far pascolare i suini. Si diceva per rendere più asciutti gli animali. In realtà, se il maiale mangiava le ghiande, non mangiava farina e mais e quindi si risparmiava sul suo mantenimento. Forse qualche scrofa in calore veniva fecondata dai cinghiali, così nascevano degli incroci. I maiali di oggi difficilmente pesano oltre 200 kg. Superato quel peso, la bestia produce troppo grasso assai poco gradito nelle diete moderne. Un tempo si macellava a pesi assai inferiori, anche perché se finivano le scorte di cereali non si poteva continuare a tenere il porcile occupato. Da un maiale si ricavavano 14-15 kg di salame, oggi se ne fanno anche 30-35. Ogni paese aveva il suo maschio riproduttore, prosegue Dante. Quando le scrofe erano in calore, nell'età giusta, venivano fatte incontrare con il maschio ed era la stessa famiglia proprietaria della femmina che si occupava di far nascere i porcellini o allevarli. Le carni attualmente sono diverse da quelle di ieri per molti motivi, l'alimentazione soprattutto. Il siero del latte aveva una buona influenza sulla qualità delle carni. Ancora oggi, infatti, in alcune regioni del nostro settentrione, i grossi allevamenti di suini sorgono in prossimità dei grandi caseifici. Il siero, conclude Dante, decide della consistenza e del colore del lardo che resta bello bianco. Cos'è più quotidiano del pane? È anche però un cibo dalle mille varianti e tradizioni, come ci illustra Roberto Zottar. Abbiamo parlato di polenta, ma in ogni mensa c'è sempre anche il pane, come ricorda l'adagio istriano: un bocon de pan dopo della polenta è come un bon tapo nel cocon della brenta. Per i friuliani, pan e gaban, le bon tout l'an, la dedizione al pane è tale che la sua privazione è il peggior castigo. A chi che no ghe piace il vin, che Dio che ciò il pan. Per concludere, chi no magna pan, no se neanche cristian. In Friuli si dice aghe e pan manghia di can, vin e pan manghia di cristian. Il pane è il principio primo della provvidenza sociale. Chi in credenza ga pan, chi in canova ga vin, chi salata ga in orto, de fame mai non è morto. E così il popolo aggiunge, chi ga pan e vin non invidia il suo vizin, anche perché pan e vin i canta de morbin, ovvero carne fa viver, pan fa goder, vin fa balar. Avrete quindi capito che oggi vi voglio indurre a fare il pan in casa, perché quando in casa se pan, se lisier ogni malan, e malinconicamente si mormora quando che il pan manca, anche la morsa è stanca. Un tempo i fornai a Bologna, per giudicare se il forno fosse pronto, tolta la brace, infornavano una sottile sfoglia di pasta di pane dopo averla unta d'olio. Da come la pasta reagiva, si capiva la temperatura, e siccome spesso questa pasta si bruciava, la chiamavano appunto strega. La ricetta delle streghe che oggi vi propongo è quella delle fornaie bolognesi, le famose gemelle simili, infaticabili insegnanti di cucina che incontrai 25 anni fa a Udine. Le streghe sono ideali per un antipasto perché si accompagnano magnificamente a formaggi, patè e mousse. Impastate allora mezzo chilo di farina con 50 g di strutto, 250 g d'acqua, un cubetto di lievito, di birra, un cucchiaino e mezzo di sale, fino ad avere un impasto non eccessivamente tenero. Ricordate il detto, cui plui mena il pan devente tenar. Coprite e fate lievitare. Riprendete la pasta e tiratela con la macchinetta per la pasta, piegandola più volte e fermatevi alla penultima tacca perché sarà quella definitiva. Disponete questa sfoglia su teglie leggermente unte d'olio di semi, pennellatela con l'olio d'oliva, cospargetela con poco sale, tagliatela a losanghe con una rotella dentata e infornate subito a 210 gradi per 12 minuti. Continuate così fino all'esaurimento della pasta. Questi crackers si accompagnano molto bene con dei salumi. Buon appetito! E con Amos D'Antoni ora l'andamento dei mercati agricoli. Mercato attivo e prezzi in salita venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 15,70 e 15,90 euro al quintale IVA esclusa, la soia tra 32,40 e 32,90, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 15,30-15,80 e il frumento tra 16,90-17,20. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 1,10 euro il quintale e la soia è aumentata di 40 centesimi. Mercato sofferente nel comparto dei bovini da macello, con le vacche fine carriera di prima qualità pagate a peso morto tra 2,40-2,90 euro al chilo IVA esclusa e quelli di seconda tra 1,80-2,40. Fiacco anche quello dei vitelli da ristallo, con i blu belga maschi quotati tra 6,40-6,80 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,65 euro, i frisoni tra 1,62 euro e i bruni tra 1,70-1,90. Toni con tendenze attive invece nel comparto suinicolo, con il valore della tonzola di 30 kg franco partenza fissato a 2,58 euro il chilo IVA esclusa e i grassi da macello in aumento a 1,56. Stabilità nel settore dei foraggi, dove il fieno Mazzengo di pianura e l'erba medica vengono pagati in media tra 19,60-20,20 euro il quintale IVA esclusa, mentre la quotazione della paglia di cereali pressata oscilla tra 12,50 e 13 euro sempre IVA esclusa. Poche variazioni infine nel mercato degli avicunicoli, con i poli a terra pagati tra 1,11-1,13 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,59-1,61, le faraone tra 2,15-2,19, le anatre tra 2,35-2,39, i conigli oltre 2,5 kg quotati dal CUM di Verona tra 2,30-2,36, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 13,20 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Marcellino Salvador diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. L'inizio di ottobre ha portato sulla regione un paio di perturbazioni con piogge che sono state intense solo localmente in montagna e a Trieste, mentre sulle altre zone ha piovuto decisamente meno. Da segnalare anche il raffreddamento nella notte tra il 3 e il 4, quando, con cielo perfettamente sereno e poco vento, le temperature sono scese fino a 5 gradi in pianura e localmente anche sotto zero nelle valli alpine, per la prima volta in questa stagione autunnale. Sulla costa si è scesi fino a 10 gradi con il mare a 20. Nel complesso, il periodo tra il 1° e il 10 ottobre è stato un grado più fresco della norma, come era successo nella seconda decade di luglio. Queste due decadi sono state le uniche con temperature sotto la norma nelle ultime 10, e cioè dal 1° giugno ad ora. Come curiosità storica ricordiamo che nel 1998, tra il 5 e il 7 ottobre, a Udine e a nord-est della città fino alla zona di Tarcento, caddero dai 300 ai 400 mm di pioggia nel giro di 48 ore. Ma se questo dato può destare scalpore, cosa dire dei quasi 500 mm caduti in un sol giorno il 10 ottobre del 1896 a Udine città? Un record che rimane imbattuto per le località di pianura e costa della regione. Passando alle previsioni, constatiamo che un fronte atlantico ci interesserà tra martedì e mercoledì. Prima persisterà ancora l'anticiclone, ma con aria molto umida dai bassi strati. Domani quindi avremo cielo da variabile a nuvoloso dalla costa alle prealpi per nubi basse. Tempo migliore ad alta quota, ma anche nel Tarvisiano verso il Cadore. Possibili nebbie in pianura. Tra martedì e mercoledì si avranno piogge in genere moderate su pianura e costa, più abbondanti sui monti. Le temperature non varieranno molto, con massime attorno ai 20 gradi su pianura e costa e minime attorno ai 15. Giovedì e venerdì il tempo migliorerà, ma l'aria rimarrà piuttosto umida. È possibile che nel prossimo fine settimana arrivi un altro fronte atlantico. Non prevediamo invece afflussi d'aria fredda almeno fino al 20. Come sempre, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle previsioni che quotidianamente l'Osmer ARPA elabora e che vengono diffusi anche dalla RAI con i notiziari radio regionali e in TV con Buongiorno Regione al mattino, tramite internet, la telefonia mobile e gli altri sistemi informativi. Termina qui la puntata. Anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano. A San Simon ogni gambe è il suo scufon, ovvero a San Simone il 28 ottobre ogni gamba deve avere il suo calzerotto che fasciava fin sopra il malleolo, segno che iniziava il freddo e non era più il caso di andare scalzi. Coordinamento tecnico di Daniel Apostu. Il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.